Buonasera e ben ritrovati a questa prima puntata primaverile di Might FM, ottava stagione. Chi vi parla di ritorno in Bologna è Claudia Mighty Mau, dopo una nostra ennesima trasferta lisboeta, dove abbiamo assistito al Lisboa Dance Festival. Qui insomma abbiamo, a cui abbiamo dedicato una compilation in nostra assenza, insomma in contumacia. Adesso invece ci dedichiamo per un'ora e 48 minuti a parlare di una band, di una coppia di fratelli pazzi, fratelli Douala. Ho scoperto come si pronuncia: Stefan e David Douala da Ghent, ovvero Soulwalks, ovvero Too Many DJs, che hanno appena pubblicato, non è vero perché esce dopo domani, nuovo album dopo 13 anni dal materiale originale di Any Minute Now del 2004, un evento sia come fatto in sé, come abbiamo scritto nella nostra presentazione, che per come è stato fatto, registrato, prodotto, la genesi, insomma l'idea, e poi insomma parleremo di tutta la loro produzione, soprattutto come inventori del mashup, dei remix a nome Soulwalks, che fanno sempre la fortuna dei gruppi, dei pezzi su cui loro mettono le mani. E come sempre ascolteremo in modo più o meno mashuppato questo nuovo album From the Wii, perché appunto è la creazione di questa nuovo luogo, nuovo studio, nuova sede che hanno costruito negli scorsi 15 anni. Come sempre partiamo appunto dal pezzo di partenza, si chiama Preset Tense, non Present ma Preset Tense, più Master Planned, i primi due pezzi del disco. Nei titoli i Soulwalks hanno sempre mostrato molto molta ironia, molto senso dell'umorismo, molta facilità nei giochi di parole, e questo infatti Preset Tense ne è un esempio. Buon ascolto per la prossima un'ora e ormai 45 minuti, 46 minuti con i Soulwalks From the Wii. Preso tutto il tuo contante, il divertimento sta accadendo da qualche altra parte. Un pezzo Master Planned che parla della tecnologia, parla del fatto di avere tutto nella propria mano, di voler catturare il momento che vediamo, di avere un accesso istantaneo a tutte le cose che sono state create, un'analisi insomma della pervasività della tecnologia nella nostra vita, loro che di tecnologia sono super appassionati, come dice David Douala in un'intervista, sai, all'inizio compro una chitarra e dopo ti ritrovi a comprare un synth e poi un computer eccetera eccetera, e alla fine, senza neanche rendertene conto, ti ritrovi a fare musica elettronica. La loro nascita come band è avvenuta nel 1995 a Ghent, ovvero Gand, la dicitura, ci sono tre diciture possibili, scritture possibili di questa città, una delle città principali del Belgio fiammingo, delle Fiandre, dove Stephen e David sono nati, a 5 anni di distanza. Immagino che Stephen abbia più o meno un anno meno di me, sia del 72, perché quando si sono formati come band, come Soulwalks, lui aveva 23 anni e il fratellino David ne aveva 18. Insieme a Stefan van der Leuven hanno fondato questa band. E finisce questa prima coppia di pezzi di apertura di From the Wii, in uscita dopodomani, nell'universo mondo, Preset 10 più Master Plan. Ma parlavamo degli inizi della band. Nel 96 pubblicano un EP, Second Hands and Blues, anche il primo gioco di parole, con pezzi poi anche inseriti nel primo album, sempre dello stesso anno, Live the Story Untold. E insomma il background, come si può sentire, era quello dell'alt rock, anzi anche abbastanza heavy, degli anni 90. Questo pezzo è Reruns Daisy Duke, poi appunto contenuto anche nell'album, e l'abbiamo unito con un altro pezzo, Cut Some Slack, per dare insomma i due sapori, flavors della musica dei primi anni dei Soulwalks, molto molto incentrata su chitarre potenti, batterie potenti, e questo è ancora quello che li contraddistingue ancora oggi, forse soprattutto per questo From the Wii, che nasce da quest'idea di avere tre batterie contemporaneamente, ma ne parleremo molto. E un suono che è molto riconoscibile insomma in quegli anni, tra un po' il Southern Rock, un po' ricorda, non so, tra Kings of Leon e Pearl Jam, tra il grunge e l'alternative rock, e il desert rock, stoner rock. Infatti non a caso il produttore del primo album, ecco il secondo pezzo, Cut Some Slack. Una grandissima influenza americana, anche se già si sente sottofondo questa drum machine. Dicevo, non a caso, forse anche agli agganci fornitigli dal padre, ma ne parleremo, sono stati prodotti in questo primo album da Chris Goss, che ha lavorato molto con i Caius, con Queen of Stone Age, considerato appunto il padrino del desert stoner rock, quindi suoni molto sudisti, molto rock, molto chitarrosi. E questo ne è un esempio. finisce anche questa coppia di pezzi, Reruns, Daisy Duke più Cut Some Slack, contenuti nel primo EP del 96, Second Hands and Blues, e poi appunto c'è stato l'album di cui abbiamo già detto il titolo, Live the Story Untold, prodotto da Chris Goss, l'abbiamo detto, dove c'erano appunto già alcuni pezzi contenuti nell'EP, e abbiamo deciso di far sentire altri due singoli presi da questo disco, era Kill Your Darlings più Great Continental Suicide Note. Dicevamo, il background familiare, Stephen e David sono figli di Jackie Duala, speaker, presentatore radiofonico, quindi la radio è proprio una cosa che hanno nel sangue, quindi anche la casa era sempre piena di promo di tutti i dischi più famosi, più popolari, e anche il padre stava dietro a un sacco di progetti, passò alla televisione a metà degli anni 80, scrittura di libri, aprì una sua stazione radio sopra un bar dove andavano a suonare i più famosi DJ belgi, anche quelli dell'etichetta Rave R&S. Un amico del padre, che era un addetto stampa, portava Stephen ai tempi 13-14enne ai concerti. Infatti anche Stephen dice che fu una rivelazione assoluta a quell'età vedere dal vivo gli Human League, e c'è un doppio riferimento, ovvero il concetto di Buona la Prima con cui è stato fatto From the Way, perché l'album di cui parliamo oggi è stato registrato e seguito tutti i pezzi di seguito, una unica esecuzione, unica registrazione, poi chiaramente sono stati fatti dei ritocchi in sede di missaggio e finissage, perché appunto un riferimento a Moroder, che nella registrazione del bellissimo pezzo che avremmo tanto voluto mettere in trasmissione, ma già ci siamo allungate anche troppo, ovvero Together in Electric Dreams dell'84-85 insieme a Phil Oakey dei Human League, disse che appunto la prima registrazione era sempre sempre la migliore. Your Darlings e Great Continental Suicide Note insieme a Caramel, un altro pezzo, sono stati i singoli tratti da questo primo album, che a parte appunto il primo EP, già questo primo album pubblicato dalla Play It Again Sam la loro etichetta da sempre e per sempre, fino a quando non ne hanno aperta una loro, ma attualmente la Pias cosiddetta è ancora insomma la loro rappresentante su ufficio stampa, e infatti è stato grazie ai rappresentanti in Italia della Pias, ovvero Micro Camilla della Spingo, che abbiamo potuto fare questa trasmissione avendo il disco in anteprima, il cui primo singolo ufficiale, c'è stata già un'anticipazione ma ne parleremo in seguito, il primo singolo ufficiale dopo la registrazione dell'album in diretta il 7 febbraio del 2017, il 9 marzo è stato pubblicato questo primo singolo ufficiale. Abbiamo postato la traccia dal SoundCloud dei Soulwax, si chiama Missing Wires. Direi una sintesi perfetta dall'energia del pop rock e il dance floor, perché comunque non puoi non cominciare a ballare, come se avessero insomma affinato una maestria tale nell'unire gli stili, loro che hanno buttato giù le barriere che separavano gli stili, infatti appunto hanno creato il mashup, che tradizionalmente era un pezzo rock o rock alternativo o indie mischiato con il più improbabile dei pezzi pop o dance. Un rapporto interpersonale di una persona che ha qualche filo mancante e che non crede alle cose finché non le sente al telegiornale. E finisce Missing Wires, questa presenza pesantissima delle percussioni, che insomma poi anche il punto centrale di questo album From the Wii, ma non possiamo non parlare del breakthrough dei Soulwax. Nel 98 lo è stato per noi, quando ce ne andavamo in giro per l'Italia con dei furgoni a portare in giro programmi di festival di cinema su e giù, e ascoltavamo ossessivamente questo album bellissimo, 98, Much Against Everyone's Advice, e abbiamo fatto una traccia molto lunga, ma per condensare insomma tutti i pezzi, i principali pezzi di questo album indimenticabili, a partire da questa Conversation Intercom, seguita da Saturday, Much Against Everyone's Advice e Too Many DJs, che poi ha dato il nome al loro alias, che insomma forse è più conosciuto di loro stessi in quanto Soulwax. Molte persone non sanno che sono le stesse persone, due pazzi. Olivia mi sta scrivendo in chat: un disco che non invecchia mai, è stato veramente rivoluzionario. Io personalmente mi sento, non so, molto coinvolta personalmente anche in questa trasmissione, vabbè, anche nelle altre, perché è come se io avessi seguito lo stesso tipo di evoluzione che hanno seguito loro, ovvero partendo da un background indie, alternativo, anche abbastanza rigido, musica discoteca, jammai, eccetera. Invece poi, anche grazie a loro, sono avvicinata al DJing, anche perché forse come loro avevo talmente tanti dischi che ho iniziato a metterli nel 96, proprio nello stesso periodo, e quindi diciamo ho seguito lo stesso processo, per cui appunto la musica rock alternativa indie e la musica elettronica dance, che grazie soprattutto ai loro remix, non sono più degli estranei che si guardano in cagnesco, anzi. Ed ecco che qui c'è il succo di tutto, una frase che anch'io amavo citare, Too Many DJs da Much Against Everyone's Advice, è... Everybody wants to be the DJ. Everybody thinks to host. Everybody wants to be the DJ. Everybody thinks it's so, so easy. E mi rimanda ad una t-shirt che acquistai a Benicassim, ma non perché per me purtroppo, che davanti diceva Everybody wants to be a DJ e dietro c'era un'immagine di un batterista rockabilly che diceva But I just want to be a drummer, e vai che si ritorna appunto alla centralità della batteria a partire dalla musica che hanno sempre fatto, anche loro remix e anche loro DJ set come Too Many DJs e questo ultimo From the Wii, ma appunto abbiamo dovuto sfumare anche Too Many DJs perché ci piacerebbe ascoltare sempre tutto quanto, ma non si può. E infatti sfuma miseramente Too Many DJs, estratto da Much Against Everyone Advice. E last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I'll give it to someone special, special, special, special, special, special. Last Christmas I gave you my heart. E questa gigionata cover di Last Christmas la pubblicarono come promo 45 giri nel dicembre del 1998, e anche per fare un omaggio postumo a George Michael abbiamo con molta fatica l'abbiamo cercata, l'abbiamo trovata e abbiamo pensato di metterla in trasmissione. E ce la teniamo in sottofondo per parlare ancora della genesi della band. Abbiamo detto nel 95 Steven aveva 23 anni, David 18, che lui che si è appassionato alla musica e ha deciso da ragazzino di comprare una chitarra perché voleva suonare come Jimi Hendrix e Slash, mentre appunto la conoscenza della musica, cioè più famosa delle grandi star, gli veniva dai promo che riempivano la casa grazie al lavoro del padre, e invece per l'area alternativa si sono fatti le ossa frequentando un negozio di dischi di Ghent, dove appunto uno dei più importanti DJ della scena rave belga della RNS lavorava. E a quel punto sia Steven aveva già, diciamo, una carriera avviata come regista televisivo, e ognuno aveva insomma un po' il suo gruppetto con cui suonava, ma Steven, il più grande, il più vecchio, ora barbuto e anche affascinantemente brizzolato, assomiglia un po' a Cassel adesso, aveva deciso che voleva cantare e quindi si unisce alla band che aveva David, che aveva già con altri due amici, per avere una band insieme che facesse della loud music, della musica potente, con delle batterie molto molto forti. E durante la produzione di Live the Story Untold, prodotto abbiamo detto da Chris Goss, che avrebbe dovuto mixarlo, ma poi si sono resi conto che a loro piaceva troppo stare a maneggiare il mixer, a spippolare, direbbe Flavia, hanno scoperto che avevano appunto molto molto facilità, talento, divertimento, e quindi insomma erano state poste le basi per quella che non sarebbe stata solo una semplice rock band. E infatti nei credits del disco si legge che è stato mixato dai The Flying The Walla Brothers, che è stato uno dei primi alias con cui anche facevano i DJ set. Loro andavano in tour, soprattutto hanno iniziato dopo, durante il tour di promozione per Much Against Everyone's Advice. Loro facevano i concerti, dopo c'erano gli after show, loro facevano i DJ set prima con questo nome, poi con il nome di The Fucking The Walla Brothers, e poi hanno assunto l'alias di Too Many DJs. E finisce anche questo dovuto omaggio a George Michael con questa versione degli Wham! Di Last Christmas, che hanno pubblicato a dicembre del 98, ma torniamo al bellissimo From the Wii che esce dopodomani e prima data assoluta del tour europeo per lancio e supporto a questo disco sarà per una volta da Milano, Magazzini Generali, il 29 marzo, una 20-22 euro di entrata di biglietto per un setup, un palco, insomma una strumentazione, anche una visione, non solo un ascolto, che sarà sicuramente eccezionale. E poi altre date in Svizzera, Benelux, Francia e Regno Unito, dove ovviamente Regno Unito e la loro madrepatria sono già tutti esauriti. Noi non vediamo l'ora di andarci e adesso abbiamo condensato in una unica traccia tre pezzi dell'album. Una è Conditions of a Shared Belief, che stiamo ascoltando, che ricorda molto, è un misto tra We Are the Robots, Kraftwerk e I Feel Love, che poi sarà seguita da Is It Always Binary e poi da Do You Want to Get Into Trouble from the Wheels. Che entra l'ultimo, Do You Want to Get Into Trouble. Dicevo, c'è anche un'economia di parole in diversi pezzi, qualcuno è strumentale, qualcuno ha solo una frase che si ripete come un mantra. Il pezzo precedente diceva Oh, your love is divine when love breaks down, la precedente diceva No one moves around, questo è un po' più articolato, però il concetto è vuoi metterti nei guai? È una roba che vuoi che succeda stanotte? È una cosa che ti fa sentire triste? È una cosa che ti arrapa? Che non abbiamo detto, che anche Match Against Everyone's Advice è stato prodotto da un produttore di lusso, di Sardi, David Sardi, mixato e prodotto, musicista, autore e produttore di Brooklyn, hardcore super producer, ma anche produttore di OK Go, Existing Things, LCD Sound System, Band of Horses, insomma esplode il successo grazie a quell'album del 98, almeno in ambito indie rock alternativo, soprattutto per noi, e i fratelli The Walla cominciano a buttare giù appunto questo muro che divide indie e dance con rework e remix, creando in pratica il concetto di mashup che noi tanto amiamo. E questo che ascoltiamo, uno dei primi interventi che hanno fatto, fu appunto per Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head, del 2001, e l'abbiamo unito malamente con invece il loro rework, diciamo, di 17 dell'Editron, che anche noi tanto amiamo, per far sentire come fosse ancora, come se fosse stato un pezzo dei Soulwax sovrapposto appunto al un vero e proprio mashup di una loro base, sovrapposto a invece a delle canzoni pop, perché loro comunque hanno tutta una serie di suoni molto molto riconoscibili e che ovviamente hanno una library di suoni che spesso usano e ripropongono in diversi remix, perché c'è proprio il marchio di fabbrica dei Soulwax che è quasi sempre inconfondibile, super riconoscibile, e che poi usano anche per loro produzioni, come si sentirà in seguito. E appunto questa è una delle prime cose che hanno fatto, poi inserite nella prima raccolta di remix che fecero poi nel 2007, Most of the Remixes. Altro appunto nel nome dei remix si divertono, infatti questo remix si chiamava Kylus, quindi un gioco di parole tra Kylie e Caius. Appunto, una caratteristica dei remix Soulwax è sempre di essere molto poco delicati, essere sempre molto molto potenti, almeno quelli dei primi anni. Appunto, parlando di accoppiamenti improbabili, all'inizio il mashup era proprio così, come diciamo adesso, per esempio quello con Felicità del Bane Romina e Moderat, che invece è la sua evoluzione, cioè un pezzo pop detto con un pezzo elettronico. Insomma, negli anni 2000 appunto vedono l'emergere di questo nuovo stile, di questa nuova tecnica, e diciamo, la nuova tecnica, insomma, loro eccellono in questi pasticcioni, come per esempio, nel senso buono, uno dei più famosi remix dell'inizio fu questo Daft Punk Explain at My House del suo amico LCD Sound System James Murphy, il Shibuya rework, perché c'è stato prima un Shibuya Soulwax Shibuya mix e poi un remix contenuto appunto nella raccolta del 2007. Che appunto, cominciando a fare questi DJ set negli after show, avevano sempre più successo e decidono, proprio attraverso anche l'incontro con Errol Alkan in un after show in un club a Camden a Londra, vedendo che anche un DJ come Errol Alkan aveva più o meno gli stessi gusti, aveva, non so, cose tipo Daft Punk ma anche Velvet Underground, hanno deciso appunto di creare questo alias ufficiale Too Many DJs, che poi ha quasi a volte fagocitato i Soulwax. Qui c'è stato con l'inizio di questa scena che ha fatto sì, anche con l'emergere dell'Electro Clash all'inizio del 2000, che anche DJ dance, insomma, chiudessero i loro set con dei pezzi, con dei classiconi, tipo mi ricordo Felix da Auscat che Benny Cassim finì con Rock the Casbah per la gioia mia e di Alberto, in questa unione appunto di mondi nell'inserimento di pezzi rock, punk, new wave nei DJ set appunto da dance floor. È esattamente appunto la stessa cosa che è successa anche a me nel mio piccolo: continuare ad ascoltare, ad amare l'indie, la musica alternativa, e poi ballarne magari la versione remix, specie appunto se fatta da loro. Io a mia volta mi diverto a fare i mashup con i loro remix. È stato abbastanza irresistibile mischiare LCD Sound System con un altro dei remix più famosi, ovvero Kids di MGMT, che quante volte abbiamo ballato. Un salto temporale un po', perché LCD Sound System è uscito nel 2005, Kids invece nel 2008, in quanto tale non contenuto, altrimenti ci sarebbe stato sicuramente nella prima raccolta Most of the Remixes. Suoni grassi definirei quelli dei remix di Soulwax. Facendo un passo indietro, iniziando questa attività abbastanza frenetica come DJ, come Too Many DJs, andando a suonare in tutti i club più fighi del mondo, sono diventati molto amici James Murphy e LCD Sound System, tant'è vero che qualche anno fa hanno progettato insieme un sound system speciale da con una potenza di 50.000 watt, che hanno detto che se si mettesse a volume massimo le orecchie sanguinerebbero. È stata appunto quest'idea di costruire questo wall of sound con l'aiuto di un tecnico famosissimo, John Klett, un audio engineer, e la tecnologia di una fabbrica, di un'industria specializzata, la Macintosh, famosa per il wall of sound The Grateful Dead. In realtà l'idea era di costruire questo sound system che si chiama Despacio, dallo spagnolo lento, lentamente, per fare delle serate a Ibiza e avere questo bellissimo sound system dove i DJ potessero suonare una musica che normalmente non hanno l'opportunità di suonare. Tutto doveva essere in vinile e tutto doveva essere suonato a 33 giri, cioè 45 giri venivano suonati a 33 giri perché davano insomma una qualità sexy. Contemporaneamente questa idea, insomma, ne ha parlato James Murphy con questo audio engineer John Klett, e hanno deciso di mettere su questo mostro di impianto che è stato presentato prima a Manchester, poi a Londra, e che ovviamente doveva anche avere una bella qualità estetica, queste colonne dorate in casse di legno ovviamente. E c'è tutto un articolo di Wired dove c'è la spiegazione tecnica di questa bestia, che appunto io non ci entro, però appunto per dire, a parte l'amicizia tra musicisti, che porta appunto a fare qualcosa, proprio a lavorare insieme nel loro line of work, come si dice, e poi perché appunto per mostrare la molteplicità degli interessi e degli investimenti dei fratelli De Walla. Hanno veramente fatto mille cose, e come hanno detto loro, insomma, invece di starti seduto in prima classe con i tuoi amici DJ a lamentarti di un posto eccetera eccetera, del suono, dell'esperienza, insomma, come DJ, mettiti a lavorare e fai qualcosa, insomma, per migliorare anche il tuo luogo di lavoro. E finisce questa accoppiata LCD Sound System MGMT. Torniamo ad ascoltare un altro pezzo di From the Wii, ovvero My Tired Eyes, un album in cui veramente hanno sintetizzato il vibe del dance floor, insomma il loro talento proprio per far muovere con le percussioni, come dicevamo e diremo molto meglio più in là. Il fulcro è la presenza di tre batterie in un ensemble di musicisti, che sono sette, sono tre batteristi più loro due, più un altro musicista e il bassista originario della band. Un'idea che hanno testato dal vivo lo scorso autunno, nella scorsa estate, anche andando a tanti festival, anche al Today's Festival a Torino, e che poi appunto è diventato un album. Ma questa è My Tired Eyes. Questo qui è un racconto, un rapporto interpersonale, non guardarmi negli occhi, non è nel tuo stile, sono completamente distrutto, il mio sorriso è stanco, ma sono qui, quindi per favore torniamo a dormire, non farmi svegliare, non svegliarti da questo dolce sogno. Temo che un giorno tu potrai trovare le bugie nei miei occhi stanchi. Poi mi chiedo come possano avere una vita interpersonale e privata, girando appunto come trottole e essendo workaholics, forse sarà un'etica calvinista del lavoro, essendo essi fiamminghi, chissà. Thank you. e sfuma anche My Tired Eyes, sempre con questa base musicale abbastanza scarna ed essenziale. Ma torniamo appunto al discorso della discografia. Dopo l'esplosione della coppia come Too Many DJs e dopo che insomma molte persone gli chiedevano ma quando è che fate un disco nuovo, nel 2004 hanno deciso di fare un disco nuovo, ovvero Enemy Now, prodotto da Flood, uno dei più grandi produttori di sempre. Ha prodotto tutti, cioè da Nick Cave, PJ Harvey, partendo da Movement, dei New Order fino a Warpaint, ma ha prodotto veramente chiunque, i nomi più grandi. Però il processo si rivelò lungo, stancante, perché comunque era come se tutta la musica che avessero prodotto in quel disco, che comunque era molto bello, ma che già sentiva insomma un po' l'influenza della musica dance in pezzi come New York Excuse e I Talking, acquisirono senso quando un anno dopo ne fecero la versione dance, la cosiddette Night Versions. Questa è infatti I Talking, cantata anche in un'altra versione da Tiga, altro grande amico. Infatti in Night Versions New York Excuse diventa questo mashup famosissimo con Funky Town di Lip Sync, infatti si chiama New York Lips. Quindi Enemy That Now l'anno dopo diventa Night Versions, e questo, anche questo, preso questo concetto da una cosa che fecero i Duran Duran, che per chi non lo sapesse, essendo nati in un club dove tra l'altro Nick Rhodes faceva il DJ, hanno sempre fatto, ovvero lui ha fatto, perché insomma la mente musicale è sempre stata Nick Rhodes, hanno sempre fatto delle versioni dance extended dei loro pezzi perché venissero appunto suonati nel club alla sera. Ma non è che prendevano dal mixer e allungavano i pezzi, mettevano pezzi più strumentali, manipolavano il pezzo in sede di mixaggio, no, tornavano in studio di registrazione e registravano ancora, suonavano dei pezzi più lunghi. E la raccolta di questi pezzi fu pubblicata solo nel 98, Night Versions, e contiene appunto queste versioni estese da discoteca dei primi tre album, tra l'altro la santa trinità dei Duran Duran, ovvero l'omonimo Rio e Seven and the Red Tiger. E finisce anche il mashup tra New York Excuse e Funky Town, I Talking e New York Excuse, l'originale, contenuti in Enemy That Now del 2004. Ma un altro remix che ha avuto più successo nella loro storia è questo singolo del 2005. Il primo in realtà uscì per primo come remix fatto dalle Tigre, poi uscì come pezzo originale, Gossip, Standing in the Way of Control ovviamente, e poi successivamente nella versione Night Version dei Soulwalks, qui ho fatto un cosiddetto MAU edit, come spesso faccio. Thank you. e in quegli anni, appunto, tra i molteplici progetti che iniziano c'è anche quello di Radio Soulwax, ovvero una stazione radio che poi diventa un canale anche video, prima sul sito soulwax.com, dove andavano 10 playlist in MP3 in successione come un DJ set, poi una stazione radio web audio video continuo per 24 ore, quindi una DJ mix, una serie di appunto DJ mix audiovisuale, quindi una playlist accompagnata anche da 24 ore di immagini, e adesso si è trasformata in un'app per smartphone e anche in un canale Vimeo. E il motto di Radio Soulwax, e in questo momento Mighty FM è anche Radio Soulwax, è Radio Kairos è anche Radio Soulwax per queste due ore, il motto di Radio Soulwax che noi abbracciamo è Why do things the easy way? Quella che noi adesso stiamo ascoltando è la prima versione diffusa a novembre di Transient Program for Drums and Machinery, che è il primo progetto che poi è diventato l'album From the Wii. E questa versione era di 8 minuti e 03, la versione del disco è di meno di 7 minuti, ma siccome a me piace questo inizio di questa versione, ho fatto un edit di una via di mezzo tra la versione vecchia e la versione del disco. E dicevo, le produzioni di Radio Soulwax, anche 4 anni fa hanno fatto un'opera bellissima, Radio Soulwax Presents Dave, un'ora appunto di audio video su David Bowie. Qualcosa per durare tutta la notte, rendimi un ballerino migliore. Sembra che qualsiasi sia la domanda, i macchinari siano sempre la risposta. E per completare il discorso sul successo dei mashup, nel 2002 pubblicarono come Too Many DJs il primo album di mashup ufficiale, ovvero As Heard on Radio Soulwax Part 2, che appunto conteneva dei vecchissimi classiconi con pezzi invece contemporanei tra Felix the Housecat, Miss Kittin, Klaxons e tanti altri. Anzi no, non c'erano ancora Royksopp, Vitalik, Klaxons non c'erano ancora. È perché il problema è che i mashup esistevano, soltanto che erano illegali, perché comunque non si avevano i diritti per poter pubblicare i pezzi. Allora cosa fanno loro? si mettono di buzzo buono, come si dice, e si mettono a chiedere la liberatoria, la rights clearance, per poter gestire i diritti, poter pubblicare questi pezzi. Chiesero i diritti per 187 pezzi, 114 accettati, 62 rifiutati e 11 assolutamente irrintracciabili, in modo da poter pubblicare, insomma, tutto quanto senza nessun problema. Infatti forse è stato anche per questo che è stato l'unico album della discografia che non era pubblicato dalla Play It Again Sam, ma dalla Parlophone. L'avevamo chiamati Klaxons, anche loro, gruppo New Rave, musica già abbastanza mossa, ma in questo remix Gravity's Rainbows, cioè dei Soulwalks, raggiungono veramente un livello altissimo quando c'è poi l'accelerazione finale, cui veramente sulla pista da ballo ti fa impazzire. Soulwalks Remix del 2007, contenuto poi in Most of the Remixes, che non è il titolo, ma sono solo le prime parole del titolo. Una prima raccolta di remix, il cui titolo ha 552 caratteri, 100 in più del disco di Fiona Apple, When the Pawn, eccetera, eccetera, del 99, che deteneva il record, ma entrambi surclassati da Chumbawamba, che quattro mesi dopo di Most of the Remixes hanno pubblicato The Boy Bands Have Won puntini puntini con 865 caratteri di testo nel titolo. Il titolo è Most of the remixes we've made for other people over the years, except for the one for I Stood Stand and Nobauten, because we lost it, and a few we didn't think sounded good enough or just didn't fit in lengthwise, but including some that are hard to find because either people forgot about them or simply because they haven't been released yet. A few we really love, one we think is just okay, some we did for free, some we did for money, some for ourselves without permission, and some for friends or swaps, but never on time and always at our studio in Ghent. Una raccolta quindi dei remix più famosi fatti fino ad allora. Infatti, come abbiamo detto, quello degli MGMT non c'era ancora, ovvero Gossip, SD Sound System, Klaxons, Kylie Minogue, Gorillaz, Daft Punk. E poi c'era anche il Disc 2, dove prima della prima traccia, facendo rewind dalla prima traccia, c'era la traccia nascosta con il famoso remix perduto degli Esturzend, che appunto non era perduto affatto. E eccola che arriva l'accelerazione. Poi nel Disc 2 altri remix per Tiga, Playgroup, che ci piacevano tanto, L'Editron, Hot Chip, Felix Auscat. Cioè, un numero di remix hanno fatto incalcolabile, ogni tanto ne incontro uno che neanche mi ricordavo che avessero fatto, e non si fermano mai. Ho visto oggi il loro SoundCloud, il 16 marzo scorso hanno sì, 16 marzo scorso hanno pubblicato, hanno fatto un nuovo remix per i Jaguar Ma Sleeping dal nuovo EP di questa band australiana che abbiamo visto tante volte, ma sono in Portogallo, la vediamo. Quindi l'amore per la radio, l'amore per le immagini, questa puttostazione audio-video Radio Soulworks l'ha anche portate a fare dei documentari, dei rockumentary usciti in DVD. Nel 2008 è uscito Part of the Week Never Dies, una frase contenuta in E Talking, diretta da regista Sam Farahmand, con riprese fatte dal 2005 al 2007 in 120 paesi, e che quindi contiene la storia, insomma le attività come Soulworks, Too Many DJs, Soulworks Night Versions, ovvero il tour dell'album versione Night Versions, e poi tra l'altro anche un altro film hanno fatto, Radio Soulworks, e anche questo amore per il cinema c'è sempre stato, e per le colonne sonore. E rimaniamo nell'onda dei più bei remix storici del Soulworks con questo per Your Chip Ready for the Floor, Soulworks Dub, sempre del 2007, che vabbè, già Your Chip sono danzerecci, però il tocco del Soulworks è sempre speciale. Anche l'amore per l'immagine, oltre che la manipolazione dei suoni, la collaborazione per colonne sonore già nel 2004 con la colonna sonora di Steven Sky di Felix van Groningen, lo stesso regista poi di Belgica o Belgica, di cui parleremo più in là, e fecero questa colonna sonora con un altro alias, Kawasaki in questo caso. Ed è stato proprio lavorando a strettissimo contatto con il loro vecchio amico, questo regista Felix van Groningen, per la colonna sonora del film Belgica uscito all'inizio del 2016, che i Soulworks, Stefan e David Douala, hanno avuto l'idea per Trends and Programs for Drums and Machines, ovvero la presenza presenza centrale di queste tre batterie, perché nel film che si svolge, cioè la storia di un club, un bar, di una discoteca, un locale dove gruppi diversi si esibiscono quasi ogni sera, c'è una scena in cui c'era appunto la performance di tre batteristi. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, Poi nel 2009 un singolo con i Crookers, We Love Animals, che però non ascoltiamo, che era poi anche l'anno in cui doveva uscire un altro disco con un altro alias, un'altra collaborazione, ma ne parliamo tra qualche minuto. Stefan racconta che l'idea, l'ispirazione, queste tre batterie, perché il loro batterista se n'era andato dalla band e quindi dovevano rimpiazzarlo. E Stefan ha pensato, ma perché invece di un batterista non prendiamo tanti batteristi? Ma si sono accontentati di tre. Ci sono trovato una pagina di un sito dove loro raccomandano i concept album che contengono più batterie della storia, compreso anche un album di Sepultura, e infatti uno dei tre batteristi è Igor Cavalera di Sepultura. E sfuma anche questo pezzone Ready for the Floor o Chip versione So Walks Dub, e torniamo a From the Wii con un'altra coppia di pezzi che abbiamo unito insieme, Trespassers, anche questo abbastanza cupo, e insieme a un altro pezzo strumentale ma non completamente, che si chiama The Singer Has Become a DJ. Anzi no, è strumentale. Adesso a leggere con attenzione il testo, non penso di sbagliarmi se dico che insomma, parla un po' della tragedia dei rifugiati che vive l'Europa e che vive il Belgio, anche quella del terrorismo. Non puoi aspettare più, devi andare da solo adesso perché il tempo per te si sta esaurendo, non andrai mai a casa. Quindi lascia che prenda il tuo cappotto, non puoi permetterti di rallentare perché stai esaurendo il tuo tempo per battere le uniformi, non avrai più un'altra possibilità, un'altra chance, baby. Il tuo futuro è dall'altra parte, ripreso da una telecamera di sicurezza. Adesso devi andare da solo perché tutto quello che noi buttiamo via a te va perfettamente bene. Tempo per te si sta esaurendo, sei dal lato sbagliato della storia. Superare la linea per la prima volta, giri gli occhi in alto verso il cielo. Sì. questo è il pezzo strumentale autobiografico The Singer Has Become a DJ. Per chi non l'avesse capito, il titolo di Most of the Remixes è la maggior parte dei remixes che abbiamo fatto, tranne quello degli Astrozend che abbiamo perso, qualcuno che abbiamo fatto per soldi, qualcuno che abbiamo fatto per baratto con degli amici, qualcuno che va bene, qualcuno che non ci convinceva tanto, insomma un titolo molto divertente. E quindi l'esibizione di tre batteristi nel film Belgica ha fatto nascere l'idea di Transient Program for Drums and Machines, tutto questo spettacolo portato in tour nell'estate scorso, che poi appunto è diventato l'album From the Wheel. Dicevamo Igor Cavalera, Victoria Smith, Blake Davis, perché appunto dopo l'abbandono di Steve Slinkenheyer hanno deciso di prendere tre batteristi. Hanno scritto nuovi pezzi, hanno messo insieme una band di sette elementi, l'abbiamo detto, i tre batteristi più loro due, più Lama Layton e il bassista originale Stefan Van Leuven. L'hanno testato in tour e poi appunto dopo una pianificazione certosina nella loro studio, casa, fortezza, palazzo, discoteca nel senso di biblioteca di vinili, viniloteca, che è appunto il The Wee Building, il 7 febbraio hanno registrato, hanno eseguito tutti i pezzi di seguito. E tutto ciò è stato registrato e è diventato il disco. Dopo tanti anni in cui appunto un nuovo disco è stato, l'idea è stata continuamente ripresa, poi accantonata, soprattutto perché gli sforzi dall'inizio del secolo, possiamo dire, nella scorsa decina d'anni fino al 2014, si è concentrato appunto nella costruzione di questo spazio, perché loro avevano uno spazio abbastanza fatiscente sempre a Ghent, poi hanno deciso invece proprio di costruire da zero un palazzone edificio di liscio granito nero concepito insieme all'architetto Glenn Sestig, che è il quartiere generale di tutto ciò che fanno: studio di registrazione, ufficio della The Wee Records, l'etichetta che hanno fondato, appunto una viniloteca che contiene i loro 60.000 dischi anche in versione digitalizzata, un appartamento per i musicisti ospiti, strumenti, macchinari di ogni tipo, molti rarissimi come synth degli anni 70, e al centro dello studio di registrazione seminterrato un banco di mixaggio del 1969. Ma quello che stiamo ascoltando è appunto uno dei loro altri progetti, che doveva uscire nel 2009, ma poi non è uscito perché poi si perdono via a fare mille altre cose. Questo pezzo è bellissimo. Doveva uscire nel 2009 il DVD, ovvero Die Verboten Disc, perché questo ensemble che ha fatto questo pezzo che stiamo ascoltando si chiama Die Verboten, cioè il proibito, e sono appunto i fratelli De Wala più il DJ musicista britannico Riton e suo cognato artista designer Fergadelic. Idea nata nel 2006, disco registrato nel 2007, poi sempre rimandata la pubblicazione fino al 2015, quando finalmente è stata riscoperta e mixata appunto ai The Wee Studios, è stato pubblicato come terza uscita di The Wee 003, un album intitolato appunto 2007. Se nel 2009 era già uscito un EP Live in Ibiza, cioè Live in Ibiza, e la nota sulla pagina del negozio del sito The Wee Studio dice che ora si trova oltre 100 sterline su Discogs, e che è stato registrato a bordo piscina, ma questo pezzo si chiama E40. E mentre l'ascoltavo ho pensato, beh, se Kraftwerk hanno fatto Autobahn, autostrada, questa è evidentemente il nome di un'autostrada europea, l'E40. Infatti sono andata a cercare su Wikipedia e è il tracciato autostradale che collega Calais con la Russia, anzi col Kazakistan, arriva fino al confine cinese e attraversa la Russia, parte da Calais, attraversa il Belgio e attraversa proprio Ghent e poi Germania, Polonia, Ucraina, Russia e le repubbliche centroasiatiche del Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Kazakistan, perché appunto il tracciato entra e esce, quindi E40. Ne siamo abituati all'E45, con la E35 anche. Insomma, questo pezzo dei Die Verboten è fichissimo. E tornando al DWI, infatti un disco nuovo dopo tanti anni, proprio che hanno dato il sangue per questo posto, non si poteva che chiamare From DWI. Il sito dice: DWI è un edificio, uno studio, un'etichetta, una collezione di dischi, una casa editrice. DWI è tutto questo, ogni uscita, pubblicazione è scritta, registrata o mixata nell'edificio da David e Stephen DeWan. Ogni progetto ha il suo numero progressivo, cioè il numero di catalogo progressivo, tutti diversi, tutti unici, tutti DWI. E da 12 minuti l'abbiamo condensato in 5 minuti e 37, è stato un lavoro anche abbastanza folle. Ma torniamo appunto ad uno degli ultimi pezzi di From the Wii. Here Come the Men in Suits. Arrivano gli uomini in giacca e cravatta che non sanno ballare, che vendono i loro piani. Ti attireranno come falene verso una luce brillante. Arrivano gli uomini in giacca e cravatta dietro le loro scrivanie. Io ascoltavo questa canzone l'altro giorno in aereo a volume un po' basso e sentivo solo la base, non sentivo altri suoni, non sentivo la voce. E per dire come la library dei suoni rimanga comunque a disposizione, ad uso e consumo e riuso, in modo molto intelligente da parte dei Showbox, la base di questo pezzo è molto familiare. Se volete vedere l'esecuzione dal vivo di questo bellissimo album, siamo fortunati a poterli vedere tra una settimana esatta, 29 marzo, Magazzini Generali di Milano, prima data del tour europeo. E un ringraziamento a Club Nation che organizza la serata anche con la partnership di On Page Festival. La Spingo, l'abbiamo detto. ta-ta, ovviamente era la base usata ai tempi, tanti tanti anni fa, nel 2005, per un altro classicone, il loro remix di Dare dei Gorillaz, contenuto ai tempi in Demon Days, con la partecipazione di Sean Ryder degli Happy Mondays. Anche questo appunto reso un classico dalla versione remix. It's there. Never did no harm, never did no harm. It's there. Never did no harm, never did no harm. It's there. Infatti una delle foto di questo studio, dove in questo studio di registrazione, in questa loro nuova fortezza, si vede questo banco di missaggio al centro della sala, con sopra un oggetto che è anche quello che spicca nella copertina del disco, quello che è la copertina del disco, ovvero questo microfono binaurale della AKG in versione cromata, a cui appunto effigie è la copertina, fotografato su un riflesso del cielo azzurro di Ghent, che però appunto, essendo Ghent, non è serenissimo, non è sereno ma anche un po' nuvoloso, perché il microfono binaurale HG a forma di testa umana ha due orecchi e quindi permette la registrazione tridimensionale del suono per ottimizzare l'ascolto in cuffia, riproducendo il più fedelmente possibile le percezioni acustiche di un ascoltatore posto nell'ambiente originario della registrazione, mantenendo quindi le caratteristiche direzionali a 360 gradi sferici. E infatti l'ascolto in cuffia a volume moderatamente alto di From the Wii è assolutamente consigliato. Ma sfuma la bellissima Dare Soulwax version dei Gorillaz, appunto la cui base è stata intelligentemente riutilizzata, riciclata per Here Come the Man in Suits. Ma cosa stiamo ascoltando? Questo è un pezzo della colonna sonora di Belgica che hanno curato i Soulwax in collaborazione con il suo regista, film presentato a Sundance 2016 come film di apertura della sezione competitiva, in cui ha vinto l'award come miglior regista. E poi comprato da Netflix, e grazie a Wikipedia che l'ho letto, perché lo stavo cercando su Emule e invece me lo sono guardato ieri sera su Netflix, una colonna sonora con 16 brani e 15 band, o comunque acts, come si dice, inventate di sana pianta dai Soulwax, dagli stili più diversi, in modo anche da non poter risalire ad un anno preciso. Infatti il film si svolge tra il 95 e il 2005. E abbiamo mixato uno di questi pezzi, che era musica turca ad opera dell'alias inventato Kursat 9000 Cold Kutup Aisi, con ci ho messo un po' a capire che è italiano. Ecco, un altro dei gruppi inventati, ovvero nomi inventati, titoli inventati, anche sempre giochi di parole, moltissimo umorismo, ma musicisti e cantanti veri. E questo gruppo è stato chiamato Erasmus, appunto non so se nel senso dello scambio universitario o riferimento proprio alla follia. Ti ricordi di me nella terra dei ciechi? Dicevo, Belgica, la storia di questo locale tra il 95 e il 2005, la storia soprattutto del rapporto tra due fratelli che insomma possono ricordare anche i fratelli De Wala, due fratelli con qualche anno di differenza, forse i 5 anni che intercorrono anche tra loro, e ci sono anche, secondo me, anche tante altre similitudini, tra l'altro il regista è molto amico, e loro poi sono presenti nel film come DJ, sono riconoscibilissimi, non si vede la faccia, ma è una bella strizzatina d'occhio, perché proprio si vede che sono loro, dal, appunto, i completi con cui sempre si esibiscono, Stefan sempre con il papillon slacciato, mentre irreprensibile sempre David, o giacchetta di velluto e collo alto, molto esistenzialista, o comunque sempre con cravatta. Massimo con camicia, con le maniche tirate un po' su. Cioè, alcune parole proprio non si capiscono. Com'è possibile che tu non sappia che sono cieco? Però pezzo fighissimo anche nella definizione di loro stessi, che definiscono appunto questo gruppo, queste donne calve e selvagge, che fanno questo attacco tribale elettro, dove la techno si unisce con il groove, con questo canto rituale che crea appunto una killer track, come si dice, e questa è stata la definizione proprio di loro. E questa ci ho messo un po' a capire. Vorrei pizzicarti nel pomo d'Adamo. Geniali. Hanno creato tutte queste band, tutti stili diversi, dallo psychobilly al metal, dall'ambient al pop retro stile Air di Playground Love, dal rock più stile Soulwax come la band The Sheets, alla disco funky, alla ballata electro neo soul di Charlotte, che è una cantante vera, che con il nome di Charlotte Adigeri ha appena pubblicato un EP, appunto quella di We Records. Ma questo pezzo è fantastico. L'ultima pubblicazione prima dell'album a dicembre scorso. Anzi no, luglio 2016, scusate, questa voce super sexy è di Chloé Sevigny. Una marchetta? Questo testo è la preghiera a Santa Teresa, dove si enumerano dei nomi di fiori, perché questo pezzo è stato fatto per Régime des Fleurs, ovvero una compagnia che produce profumi artigianali a base floreale. Los Angeles esiste da pochissimi anni, e anche nel titolo di questo pezzo c'è un gioco di parole, è Heaven Scent, però scritto S-C-E-N-T, ovvero fragranza paradisiaca, ma anche assonanza con Heaven Sent, ovvero mandato dal cielo, quindi un'espressione idiomatica inglese. E questo poi è stata la prima, comunque, pubblicazione a nome Soulwax della loro stessa etichetta The We Records, perché sì, esiste dal 2015, ha pubblicato già tanti titoli, anche dell'italiana Emmanuel, ma come Soulwax questa è stata la prima pubblicazione, e la seconda ovviamente l'album. Oh my glorious sister Therese, prodigy of miracles, your petals unfurled, I implore your miraculous intercession. Beh, anche questo pezzo penso che sia stato usato il microfono binaurale, sulla registrazione tridimensionale. Infatti nella foto che abbiamo anche pubblicato di qua e di là sul sito di Radio Kairos, sul nostro Facebook eccetera eccetera, si vede il microfono tra loro due sulla console di mixaggio e poi si vede una vetrata. All'inizio non capivo, volevo fare l'ingrandimento perché si vedevano delle scritte, poi ho intuito infatti che era la tracklist dell'album scritta sulla vetrata dello studio, perché come abbiamo detto il 7 febbraio 2017 tutti i pezzi sono stati eseguiti da questo gruppo di 7 musicisti, è stato registrato ed è diventato il disco che esce dopodomani e dopo una settimana da oggi. Si esibiranno a Milano e Magazzini Generali. Let me be anointed with the splendor of their perfumed essence. So that I may see the face of God in all people and all experiences. So that in your fragrant path, I may imitate your venerable little way. Pezzo veramente bello, Heaven Sent, con la voce recitante super sexy Chloé Sevigny. Sul sito di Régime des Fleurs si possono vedere delle Polaroid e si può sentire l'audio senza base musicale, solo appunto della recitazione di questa preghiera Santa Teresa. E per tornare nella contemporaneità, anzi rimanere, perché noi facciamo sempre appunto un ordine cronologico dei pezzi intercalati dai pezzi dell'album di cui parliamo, a dicembre, questo sì è vero, a dicembre del 2016, uno degli ultimi remix innumerevoli fatti da Soulwax, e questo Soulwax remix Mau Edit, anche questo di una delle nostre canzoni preferite degli ultimi mesi, di uno dei nostri gruppi preferiti degli ultimi anni, ovvero le Warpaint, New Song, tratto dall'album omonimo Warpaint dell'anno scorso. Però devo dire che quando l'ho sentito io sono rimasta un po' male. Cioè adesso l'ho messo perché comunque sono Warpaint, perché comunque è uno degli ultimi remix che hanno fatto, però insomma non mi pare completamente riuscito. Cioè d'altra parte fare mille robe, no? Cioè, non è che puoi avere sempre il focus, hanno questa iperattività molteplice, multiforme. E voglio dire, cioè, mettiti nelle Warpaint, cioè, Soulwax alla fine, cioè, ti fanno il remix di un pezzo tuo, tu come fai a dirgli che magari non ti piace, no? Insomma, hanno fatto di meglio. Però noi siamo obiettive e soprattutto massimaliste, quindi ce l'abbiamo messo. Dance, Ripeto, questo ed altri pezzi. Ho fatto un taglio a cuci con cui mi rincoglionisco con Audacity, insomma, nel mio piccolo mashup, remix, edit. E questo appunto ne è un esempio per questo ultimo, uno degli ultimi remix dei Sowax, Stefan e David Douala. Stanotte mi è venuto il dubbio, mi sono andata a cercare un video, un'intervista dove loro pronunciassero il loro cognome, perché non avevo assolutamente idea di come si potesse pronunciare Douala. Loro dicono Douala, David Douala, Steph Douala. New song, World Paint. E quindi sfuma anche questo ultimo remix che abbiamo messo in questa edizione particolarmente lunga. Non abbiamo mai sforato l'ora e mezza, oppure siamo tornate nei ranghi in versione di podcast, ma noi, siccome poi io faccio anche qui la programmazione, mi regolo lo spazio che mi serve, quindi non c'è problema anche per la replica. E poi il podcast sul blog sarà sempre disponibile. Siamo arrivati alla fine della trasmissione e ovviamente chiudiamo con l'ultimo pezzo di From the Wii. So much bullshit coming out of your mouth. E a questo punto temo che Stefan si stia rivolgendo a me. There's so much bullshit coming out of your mouth. Insomma, perché dice, sono talmente tante stronzate che ti escono dalla bocca. Insomma, spero di non averne dette tante. Per parlare di questa epopea professionale, musicale, esistenziale dei Sowax, Too Many DJs, chi più ne ha più ne metta, una cosa che io appunto ho seguito personalmente, mi ha toccato veramente, ha coinvolto molto la mia vita e la mia percezione e fruizione e... insomma, rapporto con la musica anche come DJ, sempre nel mio piccolo insignificante. Infatti anche facendo la trasmissione, fare i mix dei pezzi che chiamo mashup, oppure mettere un pezzo, diciamo, più o meno serio che mi ricorda un altro pezzo molto meno serio, come quando ho messo Chairlift con Alan Sorrenti, tipo... sono cose che appunto mi divertono, insomma, un po' nella vena dei Too Many DJs o dei Sowax. Ricordiamo, album in uscita, From the Wii, dopodomani, ufficialmente, live a Milano, il 29, Magazzini Generali. E questa trasmissione mi ha fatto scoprire tante, tante cose belle. A parte il film, Belgica, non mi è piaciuto tantissimo come film, ma la colonna sonora è eccezionale. Questi gruppi inventati, inventarsi i nomi, i titoli dei pezzi, lo stile, addirittura gli adesivi, cioè con la grafica di ogni logo, di ogni gruppo. E c'è un altro pezzo fantastico, l'ultimo, di Noah's Dark, invece Noah's Ark, perché poi si fa riferimento al locale, all'inizio, questo bar Belgica, come un'arca di Noè che salva e accoglie tutti. Mi ha fatto scoprire il pezzo con Chloé Sevigny che mi ero persa, mi ha fatto scoprire Die Verboten, anche questo album di Kraut Rock, Space Rock, finalmente pubblicato nel 2015. Insomma, Fratelli Douala sono una forza inarrestabile, noi speriamo di non aver fatto torto. E buon ascolto con Mighty FM e Radio Kairos. Ciao da Claudia Mighty Mau.